America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. Continua il grande addio di Barack Obama dallo scenario mondiale. Il presidente ha chiuso poco fa il suo ultimo viaggio europeo da presidente degli Stati Uniti d'America. Beh, devo dire, sembra ieri che qui a Berlino, 8 anni fa, era stato accolto da una folla straordinaria che lo spingeva verso la Casa Bianca. Ecco, una pagina importante di storia ovviamente si è archiviata. Obama è già in volo per il Perù, dove a Lima parteciperà al vertice dell'APEC. Sarà l'ultima missione estera della presidenza Obama, tra l'altro. A Lima ci saranno anche Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping, Shinzo Abe, il primo ministro giapponese. Un saluto anche a loro, con cui ha scritto, devo dire, alcune importanti pagine di storia degli ultimi 8 anni. A tutti i membri dell'APEC, la membership include paesi del Pacifico per migliorare la cooperazione nell'area, nel bacino del Pacifico, ecco, dirà a tutti loro che il TPP, l'accordo per creare un'area di libero scambio fra 11 paesi nel Pacifico, è saltato ed è la prima conseguenza pratica della vittoria di Donald Trump per la Casa Bianca 2016. Un saluto naturalmente anche ai leader europei a Berlino. È stato un evento abbastanza straordinario perché, oltre al bilaterale con la Merkel che ha fatto ieri e poco fa, si è congedato, ha salutato, oltre alla Merkel naturalmente, anche François Hollande, Matteo Renzi, Theresa May, Mariano Rajoy. Sono tutti venuti a Berlino per salutare Barack Obama. Ma sentiamo il presidente americano da Berlino. My hope is that the president-elect coming in takes a constructive approach, but that the president-elect also is willing to stand up to Russia where they are deviating. Ecco, qui c'è un'altra legacy politica per Obama. Dice il presidente, spero che il presidente eletto Donald Trump manterrà un approccio costruttivo con aree di collaborazione nei confronti della Russia, ma senza cedere quando Mosca andrà a deviare da valori e norme internazionali. Trump intanto continua la ricerca dei suoi ministri. Abbiamo una notizia, perché ha offerto a Michael Flynn di fare un generale in pensione, suo importante consigliere di politica estera durante la campagna elettorale, di fare il capo del Consiglio per la sicurezza nazionale. Ecco, questa è la prima nomina importante di Donald Trump. Per il resto ci sono polemiche che questa sua squadra di transizione funziona e non funziona, insomma, però io non vorrei entrare molto nel dettaglio in questa fase, anzi vorrei chiuderla con la politica per tornare al solo andata che abbiamo ignorato da molto molto tempo, visto che siamo stati travolti dalla storia americana, che naturalmente era molto più importante. Sentiamo. Wanna be Americano? L'avrete riconosciuta, è la grande Sophia Loren. Perché vi ho fatto ascoltare questa canzone, questo spezzone da questo film? Perché ho con me ai microfoni di America 24 Maria Manetti Schremme, che ha molte particolarità. Maria Manetti Schremme è non solo una collezionista, una grande filantropa, ma nel contesto delle storie che vi racconto ogni tanto per Solo Andata, è una che ha preso un biglietto di Solo Andata tantissimi anni fa, è arrivata in America e tra l'altro fra le sue collezioni ha 55 film di Sophia Loren. E Sophia Loren è talmente presa da questa cosa che va da lei a Napa Valley in California e passano delle giornate insieme a prendersi il caffè e a chiacchierare. O con me qui a New York, perché è di passaggio, proprio Maria Manetti Schremme. Buongiorno Maria. Buongiorno Mario. Intanto benvenuta. Dunque, grazie. Ma come mai questa passione per Sophia Loren? Poi passiamo alla vera storia, perché devo dirlo ai nostri ascoltatori, darò una notizia, perché Maria Manetti Schremme con suo marito Ian hanno fatto una cosa straordinaria in California, che secondo me è un insegnamento importante per quello di cui parlo spesso, cioè per quelle che dovrebbero essere anche delle missioni filantropiche in Italia. Ma torniamo a Sophia. Io ho sempre adorato Sophia Loren, ho tutti i suoi film di quando aveva 18 anni, tutti, e lei ha 82 anni, ha ancora lo stesso corpo e la stessa mente di allora. È divertente, sempre divertente. Ha un senso di humor fantastico. Lei parla a me in napoletano, io parlo a lei in toscano. Ecco, perché tu sei e viviamo insieme. Ecco, perché tu sei toscana, che a un certo punto è arrivata in America. Sì. Raccontaci questo tuo biglietto di sola andata. Io sono venuta in America per amore. Vivevo a Firenze, avevo una bellissima ditta, ero sposata, non c'era... divorzio in Italia a quel tempo, pertanto per poter venire in California a sposare questo studente dell'Università di Berkeley, bello come il sole, alto, biondo, con gli occhi celesti, che mi sono mortalmente innamorata, ho perso tutto e sono venuta in America con $2,000. E lavorando molto forte, diventando director o dei Gucci franchise e Joseph Magne, e poi una distribuzione di Gucci, Fendi e Marc Ross per tutti i department e specialty store, ho fatto molto bene, ho lavorato 18 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, nessuno mi ha dato niente. Quindi è un American Dream, ma quando è che sei arrivata? Di che anno parliamo quando sei arrivata in America? Dicembre 1972, 44 anni fa. Ecco, ma parliamo di filantropia, sì, perché questo è al centro, direi, sì, della nostra chiacchierata, perché in Italia di filantropia si parla molto ma si fa poco, e invece tu, devo dire, hai fatto molto, soprattutto adesso, perché hai lanciato un nuovo museo, sì, in California, sì, alla Davis University, yeah, non lontano dove, yeah, sei te. L'Università di UC Davis, con 36.000 studenti, è proprio accanto a Sacramento, è conosciuta nel mondo per l'agricoltura e la scienza del vino. Noi abbiamo deciso di contribuire alla costruzione di un museo per l'arte contemporanea, perché da 60 anni questo è un grande e importante college di arte, dai quali sono venuti degli artisti molto famosi americani: Wayne Thiebaud, Robert Arneson, William Wiley and Bruce Nauman, Deborah Butterfield, eccetera eccetera eccetera. Allora, con il suggerimento della grande Margaret Mondavi, che purtroppo è morta un mese fa, noi abbiamo deciso di aprire questo museo, di aiutare a aprire questo museo, e sarà dedicato il 30% alla scuola, e sarà per la parte nord della California, è un museo molto molto importante. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.